Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da agosto a novembre del 1855. Guerra di Crimea, la disfatta russa, le forze dello zar sconfitte alla Cernaia e Sebastopoli. Stati Uniti, alta tensione al confine tra Kansas e Missouri, ucciso un abolizionista. I giornali festeggiano, il Regno Unito abolisce la tassa sulla stampa. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Vi raccontiamo in apertura le vicende della guerra. I russi sembrano arrivati alla sconfitta. La guerra di Crimea è un grande massacro, ma i piemontesi portano a casa un discreto successo di immagine. Ad oggi la Russia è con le spalle al muro. L'11 settembre Sebastopoli è caduta. L'attacco decisivo è stato portato l'8 settembre dalla divisione francese MacMahon, che ha preso il forte Makhalov. Gli uomini di Cialdini, previsti in azione all'ultimo, sono stati messi da parte, ma i piemontesi hanno combattuto bene alla Cernaia il 16 agosto. Di fronte a un attacco russo, i bersaglieri schierati sulla destra hanno respinto l'assalto e hanno anche preso di fianco i russi. Le perdite sono state limitate, ma il generale La Marmora, in una lettera a Cavour, ha parlato di 200 morti e a Torino l'entusiasmo è esploso. Un tale contributo, per di più vittorioso, cancellava finalmente l'onta di Novara. In realtà i morti sono stati una ventina, forse solo 14. La maggior parte delle vittime subite dall'armata sarda in Crimea è stata causata dal colera, 1300 morti nel solo mese di luglio su 18.000 soldati. Gli inglesi non sono molti di più, comunque molti meno dei 150.000 francesi, ma il racconto delle loro azioni è a tutti ben più noto grazie a William Howard Russell, corrispondente del Times, uomo d'onore e grande reporter, che ha descritto anche miserie e fallimenti come la rovinosa carica della cavalleria leggera a balaclava e le difficili condizioni dei soldati inglesi al fronte. Per questo Russell è stato fatto rimpatriare immediatamente, ma i suoi articoli hanno spinto all'azione Florence Nightingale, partita con 38 infermiere volontarie da Londra, allestito un ospedale militare a Scutari, ha fatto della pulizia e dell'efficienza un'arma contro la mortalità legata al sovraffollamento, alla mancanza di ventilazione e alle carenze del sistema fognario, e sta insegnando molto sulla gestione degli ospedali agli stessi medici. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24, Sebastopoli. Sta progressivamente salendo la tensione al confine tra territori americani del Missouri e del Kansas. C'è stata una sola vittima, ma quello che è successo è indice del clima che si respira tra stati favorevoli alla schiavitù e contrari. Un piccolo esercito di 1500 uomini dell'abolizionista Missouri ha assediato la città di Lawrence in Kansas per rappresaglia dopo una sparatoria. Tutto si è risolto alla fine con un accordo, ma la politica americana si sta interrogando su come porre fine a queste vicende. Grande soddisfazione nel mondo dei media britannici per la decisione del governo inglese di abolire definitivamente la tassa sulla stampa, molto onerosa. Parecchi giornali, soprattutto nella capitale Londra, hanno deciso non solo di abbassare i prezzi in maniera drastica, ma di iniziare ad uscire ogni giorno e non più bisettimanalmente o settimanalmente. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Scaricate come sempre il nostro foglio quotidiano su www.radio24.it. Scriveteci sulla nostra pagina Facebook o a gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.